Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Arriva Perisic, è la tripletta, arriva alla fine, Ivan Perisic tre volte, che Perisic, che Inter, 5-0, effetto della classifica. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Forse è una delle ultime chance, poi mancherà un minuto di recupero da giocare. Anche Prignoli a saltare in area di rigore. Va Cataldi dentro, Prignoli! Prignoli! Ha pareggiato Prignoli! Ha segnato il portiere del Benevento! Un gol storico! Milano che fatica! Bruci, fa male, era meglio una coltellata che questo gol, faceva meno male. Abbiamo sofferto per gli ultimi 15 minuti, ma alla fine abbiamo preso un gol beffa e non mi sarei mai aspettato di prendere un gol a 94esimo in 30 secondi dal portiere della squadra avversaria. Milano senza fortuna, ti porti con te, sottoterra o sulla luna. Mirabile, la sintesi di questa domenica tutta milanese, dopo che venerdì sera abbiamo visto la Juventus sbancare Napoli. Avremo tempo per parlarne. A proposito, c'è chi ha scritto al 349-238-6666 che sta godendo come un riccio da 40 ore. Domani mi dovete richiamare, amico mio. 800-24-0024, ti aspettiamo oggi, perché domani? 800-24-0024. Noi non chiamiamo nessuno. Abbiamo fatto la sintesi. Telefonate. Abbiamo fatto la sintesi della domenica delle milanese. C'è una nuova capolista in Serie A, è l'Inter, che è stata oggettivamente straripante oggi contro il Chievo. E i numeri di questa partita sono davvero qualcosa che fa riflettere: 5 gol segnati, 30 tiri, 17 in porta, 15 occasioni da gol, 18 corner, 61% possesso palla. Per carità, statistiche che possono dire anche tutto il contrario di tutto. L'Inter però ha dato una sensazione di superiorità assoluta, anche fisica. E il Milan, lo avete sentito, ha preso il 2-2 a Benevento al 95esimo con gol di Andrea Brignoli, il portiere, primo punto storico del Benevento in Serie A. Allora, Carlo Genta, l'avete sentito, 800-24-0024. La domanda io ve la faccio subito, poi andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. È sabato sera, ore 20:45 all'Allianz Stadium, Juventus-Inter, è un confronto scudetto, sì o no? Vi sto aspettando, sì. Voglio sapere cosa ne pensate. Secondo me no. Dario Ricci, ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati da San Siro, con mia compagnia Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Beh, allora partiamo subito dalla domanda, Mirko, perché poi andiamo a ripercorrere rapidamente questo Inter Chievo. Sabato sera all'Allianz Stadium di Torino è scontro scudetto, è sfida scudetto. Quest'Inter è a questo punto candidato ufficialmente a tricolore? Quando sei così in alto in classifica, naturalmente devi pensare in grande. Poi, se ci fermiamo un attimino ad analizzare le rose e il potenziale delle squadre lassù, io credo che l'Inter sia un pizzico sotto sia la Juve, sia il Napoli, sia la Roma. È però vero che questa squadra cresce, gara dopo gara, ha una grandissima solidità, ha un grosso limite secondo me in prospettiva scudetto, che manca di talento puro dalla tre quarti in avanti, e in alcune gare le risolvi con il talento puro. È comunque vero che in questo momento l'Inter sta giocando a memoria, è una squadra molto convinta. Quello che ha impressionato oggi, al di là del Chievo che era rimaneggiatissimo, era senza tutto il centrocampo titolare, quindi non dimentichiamocelo, però ecco, l'Inter ha inseguito ogni pallone fino al 90esimo. Cioè, a un certo punto Perisic che si arrabbia con qualcuno dietro Spalletti, non so se dalla panchina, perché non ridà il pallone immediatamente sul 4-0. Insomma, è una squadra cattiva, affamata in questo momento. È una squadra che deve dare un'ultima scrollata, secondo me, alla classifica per cercare di staccare la Lazio, che è, diciamo, l'ultimo vero ostacolo fra l'Inter e il ritorno nell'Europa che conta. Io credo che il vero obiettivo dell'Inter quest'anno sia entrare in Champions League. Sottoscrivo tutto, Mirko. Io in parte sono quasi sempre d'accordo con Mirko Graziano, però è vero, diciamo dall'inizio non può essere l'anno dell'Inter, l'obiettivo è quello della Champions League, eccetera eccetera, non ha tanto talento offensivo, però io pian piano sto cominciando a credere in qualcosa di diverso, e allora è per quello che dico che a Torino sarà, parlare di partita scudetta a dicembre è una forzatura colossale, però un confronto tra due grandi squadre, quelle che stanno meglio adesso in Italia alla luce di quanto abbiamo visto anche venerdì. Poi neanche tanto talento offensivo averli Perisic, Icardi, Candreva. Sì, ma il talento offensivo credo sia, poi ovviamente per chi sta ascoltando non stiamo parlando di oggi, no Dario, perché oggi l'Inter che abbiamo visto davanti è divertito, oggi ha creato tonnellate di occasioni, però insomma stiamo ragionando in prospettiva. Senza, appunto, i numeri che hai ricordato all'inizio sono più che eloquenti. Il migliore in campo del Chievo, malgrado il punteggio finale, è stato sicuramente Sorrentino, che ha fatto almeno tre miracoli nei cinque minuti di recupero. Senza dimenticare poi, in vista di sabato, no ragazzi, che lo chiedo ancora a Mirko, che la Juventus martedì va a giocarsi una qualificazione in Champions ad Atene contro l'Olympiakos, e non è mai scontato. Ma a questo punto non è che c'ha ragione Sarri che l'Inter gioca un altro calcio non avendo le coppe? Ma allora sì, c'è questo vantaggio di poter preparare la partita, di poter smaltire gli acciacchi, le botte, di avere quel tempo appunto per recuperare alcuni giocatori. Detto questo, la Juventus ha 25 titolari, davvero una rosa impressionante e attrezzatissima per fare due gare o tre gare in una settimana, e oltretutto in una posizione abbastanza comoda la Juve, perché lo Sporting dovrebbe andare a vincere a Barcellona per costringere la Juve a vincere in Grecia. Io credo che sarà una bellissima partita sabato, credo che siano le partite di questa Juventus in particolare. Non a caso, cioè basta andare a vedere come se la sono giocata a Napoli, per esempio, la Juventus. Quando la posta è alta, questi non falliscono mai, perché sono giocatori esperti, forti, cattivi. E dall'altra parte però c'è appunto un Inter che sta benissimo fisicamente, che sta benissimo in campo, è messa benissimo in campo ed è in grado con certe caratteristiche di creare qualche secondo problema. Secondo te come se la va a giocare sabato Spalletti a Torino? Come se l'è giocata a Napoli, secondo me. Quindi se la gioca. In maniera, linee molto strette, sì, linee molto strette dietro, non rinuncia a giocare la partita, ma farà molta densità in mezzo, cercherà proprio di innervosire diciamo i talenti della Juve, cercherà di chiudere le linee di passaggio il più possibile per poi ripartire con i suoi cavalli, perché l'Inter ha dei cavalli da centrocampo. Su recupererà Vecino molto probabilmente, recupererà, ci sarà di nuovo Gagliardini, c'è Perisic che a campo aperto è impressionante, c'è Candreva che sta attraversando una condizione di forma importante, e poi c'è il killer di Rosario là davanti che insomma viaggia a oltre un gol a partita. Non a caso anche oggi l'Inter ha costruito molto in contropiede, no? Pur con le tante occasioni che ha avuto. È nelle caratteristiche di questa squadra, partire a campo aperto, sa far male a campo aperto. Da segnalare, e poi rilancio la palla allo studio, un paio di atteggiamenti positivi da parte della curva nord e di tutto lo stadio, gli applausi per Santon e Ranocchia, due giocatori che sembrano pienamente recuperati nel progetto. Ranocchia oggi ha sfiorato anche più volte il gol, e i cori della nord e di tutto lo stadio per Luciano Spalletti. Insomma, il popolo nerazzurro, Mirko, mi sembra pienamente ricompensato. Posso dare a Mirko due numeri su Spalletti, the real top player. Adesso Icardi a parte, Perisic a parte, da quando è tornato in panchina in Italia Spalletti ha vinto 54 partite su 72, ha fatto 172 punti con una media di 2,38. Come direbbe Tavecchio, chapeau. È impressionante, diciamo che nella sua storia italiana ha avuto la sfortuna di incrociare prima l'Inter di Mourinho e poi questa Juventus, perché Spalletti è sempre rimasto là in alto, è una garanzia, è un allenatore che migliora i giocatori, questa è la grande dote di questo allenatore, migliora i giocatori. Abbiamo parlato di Ranocchia, era una partita, ma Santon è ormai alla terza quarta da titolare ed è un giocatore recuperato, è un terzino recuperato, un giocatore importante per questa Inter che ha bisogno di fisicità e ha aggiunto centimetri e peso in difesa. È una squadra tosta, solida. Io dico sempre che l'Inter in questo momento qua è una squadra scandinava, no? È una squadra rocciosa, forte. No, non ricordarci gli scandinavi qua a San Siro, che assomiglia alla Svezia, favore, no? Grazie. C'è qualcosa di meglio. Va bene, ragazzi. No, dicevo appunto, è una squadra che fa della solidità la sua grande forza, e poi appunto anche giocatori che davanti, se gli capita la palla, vedono la porta. Però ripeto, la vedo un gradino ancora sotto le prime tre, diciamo, nel discorso scudetto. Comunque il tema è aperto. Allora, abbiamo il traffico. Saluto Mirko Graziano, non Dario Ricci. Tra qualche minuto torniamo a San Siro. Ciao Mirko, grazie. E abbiamo ricordato anche noi che il Chievo oggi aveva tanti assenti. Ricordiamo, come ci scrive qualcuno al 349-238-6666, che aveva fatto i supplementari in Coppa Italia nel derby contro il Verona. Ricordiamo tutto. C'è un amico che scrive: Andrea, esaltate tanto l'Inter, ma sabato la Juve l'asfalta per 3-0. Non lo so. Si diceva anche dell'Inter quando è andata a Napoli. 800-24-0024, stiamo aspettando le parole di Spalletti a Premium Sport. C'è Giovanni da Reggio Emilia, da cui ripartiamo. Parliamo anche del Milan, perché adesso anche con gli ospiti da San Siro parliamo di che cosa è successo oggi a Benevento. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Abbiamo lanciato anche il sondaggio: se Juve-Inter di sabato sera è o no sfida scudetto. Siamo 50-50, ma lo siamo anche qui, per me no, per Carlo Genta sì. Giovanni da Reggio Emilia, 800-24-0024, vai. Sì, buonasera a tutti. Buonasera a te. Sentite, io ho una premessa prima di tutto: io penso che ancora non si sia presa piena consapevolezza di quello che sia Sunning come società e di quello che è il binomio Spalletti-Sabatini. A livello di sulla di seconda squadra. Sono d'accordo, sulla senso? Prima meno, perché se Spalletti ha in mano in questo momento un Inter ridotto all'osso, ricordiamo che oggi ha giocato a Ranocchia, ha preso gli applausi, ma tanti tifosi dell'Inter non avrebbero più voluto vederlo, non c'è un backup di Cardi, eccetera. Certo, ma difatti secondo me è Spalletti che sta facendo qualcosa fuori dall'ordinario. Però come, prego Giovanni. Come ha rivitalizzato Santon, sì. E altri ragazzi della loro... Ma anche tutti dal primo all'ultimo, esatto, tutti quelli che c'erano in questa squadra qua, che l'anno scorso sembravano dei bidoni, quindi dal primo all'ultimo. E una cosa volevo dire a Mirko Graziano, se non sbaglio, che ha detto che l'Inter forse pecca di talento puro dalla cintola in su. Sì. C'è una cosa che io... c'è un intervento in verecondo dal mio punto di vista. Dalla no, attenzione. In su, vuol dire che Candreva, Perisic, Icardi, non so. Sì, attenzione. No, manca quello in mezzo. Questo significa, Giovanni. Manca quello che salta l'uomo dell'ultimo passaggio. Manca probabilmente quel tipo di giocatore lì, il numero 10. Manca forse questo all'Inter, però sottolineavamo prima come averlo uno come Perisic da una parte, averlo come uno come Candreva dall'altro, avere uno come Icardi davanti che... io rimango del parere uno dei migliori attaccanti del mondo. Io capisco che oggi sia un discorso difficile da fare. Oggi l'Inter ha giocato una partita strepitosa, anche facendo la tara alle difficoltà del Chievo, e non è la prima. Però tante partite in queste prime 15 l'Inter ha avuto la difficoltà di quella mancanza lì, partite che magari ha vinto: Inter-Genoa all'88esimo, la partita pareggiata col Toro, Inter-Spal 2-0, che non è stata un'ottima partita dell'Inter, Bologna-Inter, quello è il ragionamento che faceva Mirko Graziano, ma il primo a farlo quel ragionamento, se permettete, è Spalletti, che quell'uomo lì quest'estate l'aveva chiesto. Torniamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Dario, eccoci ancora di nuovo insieme ragazzi. Tra l'altro oggi si è messo in luce anche Handanovic, perché sullo 0-0 ha fatto una bellissima parata su un colpo di testa molto difficile di Maggiorini, che chiaramente non avrebbe cambiato l'esito di questa partita, ma insomma Handanovic anche quest'anno c'è sempre e sempre pronto anche in ogni occasione. Sono qui con Stefano Scacchi, amico e collega della Repubblica. Stefano, ti chiedo un attimo di guardare da qui a Benevento, perché in questi giorni sulla pagina della Repubblica ti sei concentrato anche sui conti del Milan, che continuano a non tornare anche in campo. Veramente insomma questo 2-2 lascia come ecco, abbiamo visto la curva nerazzurra che ha preso spunto, si è gridato anche al Milan oggi, ma era Skriniar quello che ha fatto il gol, insomma. Sì, difficile, sì, ciao, oggi reggere, ciao Stefano, difficile oggi reggere il paragone tra le due Milano. Sì, no, diciamo che mai come oggi la distanza è sembrata enorme e se vogliamo si è ribaltato tutto in pochi mesi, perché ad agosto sembrava che chi avesse il vento in poppa era il Milan, invece dopo oggi chiaramente qua a San Siro poi anche i tifosi dell'Inter hanno giocato su quello che era successo a Benevento e poi il punteggio rotondo ha ancora alimentato di più le distanze di questa giornata che loro ricorderanno a lungo. Assolutamente sì Giovanni, per un Inter di cui abbiamo detto un po' tutto, ma c'è stato, ecco, importante il recupero anche di Ranocchi e Santon, come sottolineavamo anche con Mirko Graziano, e poi Spalletti, che è veramente pienamente in carica come condottiero, traghettatore, e anche pienamente uomo Inter. Ho sentito anche le belle parole che ha speso in settimana in conferenza sulla Hall of Fame interista inaugurata in questi giorni. Sembra interista da sempre, no Ste? Sì, sì, io se posso anche magari mettere l'accento poi su un altro elemento, io trovo che oggi abbia fatto una partita straordinaria Borja Valero, perché secondo me poi una delle robe migliori di questa Inter è la capacità che ha di reggere i tempi delle partite, cioè rallenta quando deve rallentare, accelera quando deve accelerare, non va mai in affanno. Secondo me per fare questo deve avere dei giocatori in mezzo che quei tempi lì li sanno dettare. Borja Valero in quello è un maestro assoluto e oggi secondo me l'ha fatto vedere ancora di più. Sì, forse manca solo la stoccata sotto porta di João Mario, no? Che ha avuto qualche spunto, qualche occasione. Da quel punto di vista potrebbe essere un'arma in più, e forse anche quel talento col 10 sulle spalle, anche se non è proprio il suo numero, però insomma, che potrebbe innescare ancora meglio il gioco offensivo. Però io mi aspetto che sabato torni all'Inter di settimana scorsa, recuperate gli squalificati. Sì, sì, tornerà poi ai suoi 11, poi bisognerà vedere se Santon o Nagatomo, perché oramai Santon sembra aver scavalcato nella gerarchia Nagatomo. Però ecco, João Mario è vero che ha sbagliato il gol, come ricordava Dario, però secondo me è un altro giocatore che quei tempi lì li conosce a memoria, e secondo me quei tre giocatori, diciamo, io direi Vecino, João Mario, Borja Valero messi insieme lì, poi João Mario gioca meno degli altri due, però sono fondamentali per aver cambiato volto a quella che era l'Inter l'anno scorso. Sono usciti due interditori, due mediani che quei tempi non li sapevano dare, sono entrati due maestri da quel punto di vista. È sfida scudetto Juve-Inter, mi rispondi Stefano? Sfida scudetto o no? Secondo me sì, però poi l'Inter, secondo me, allora fino adesso l'Inter è stata perfetta, secondo me adesso inizia una nuova fase della stagione, cioè inizia la fase in cui l'Inter avrà un paio di partite di Coppa Italia, quindi dovrà giocare a un ritmo un po' più frequente, e inizia la fase in cui le altre non avranno le coppe, cioè quel vantaggio che l'Inter ha avuto fino adesso è che è stato sfruttato in maniera assolutamente perfetta, perché tutte stanno andando fortissimo, l'Inter sta andando più forte delle altre, adesso cambia un po' perché per due mesi anche le altre non avranno l'impegno infrasettimanale, quindi lì secondo me faranno lo stesso vedere... sport, per dirla alla Maurizio, esatto, Sarri, bravissimo. Sì, sì, bravissimo, che Spalletti quello. Se l'è anche un po' legata al dito, secondo me giustamente. Allora, grazie a Stefano Scacchi, grazie a Dario, grazie Ricci, grazie a voi ragazzi. Ciao. Alla prossima. Dario, c'è Spalletti che sta iniziando a parlare a Premium Sport. C'è poi un andamento della gara in questa maniera, dove la squadra riesce a dividersi tutti i compiti, riesce a fare tutte le cose da squadra, è un risultato per l'allenatore, per il gruppo. Poi dentro questo dividersi un po' tutto, diventa anche più facile trovare delle situazioni dove si può andare a incidere come risultato, ecco. La strada è quella giusta, oggi la squadra ha cominciato bene, poi ha proseguito benissimo, per cui c'è poco da dire, gli si dice bravi, e poi si cerca di andare a trovare il cavillo per poter migliorare qualcosa ancora. Sì, e non è semplice oggi dopo la partita che abbiamo visto a San Siro. La strada è quella giusta, credo che sia il titolo per quanto riguarda Spalletti di questo pomeriggio. 800 24 00 24, Antonio da Lecce. Antonio, buonasera. Vai. Mi sentite? Sì, perfetto. Allora, premetto che sono juventino e che ancora sto godendo, perché non so quale grande regista poteva creare un film del genere. Tutti aspettavano Higuaín, già credevano che Higuaín non giocava contro il Napoli, e abbiamo vinto così. Detto questo, per quanto riguarda la pretendente al titolo, oltre che la Juve, per fede calcistica, temo molto la Roma. Ti fa paura l'Inter o no? Non ti fa paura? No, l'Inter non mi fa paura. Non mi fa paura per una serie di motivi, perché comunque ha avuto molte volte fortuna nel vincere, e quindi le fortune a fine stagione si compensano, perché ha avuto alcune volte fortuna con gli infortuni di altri giocatori. e quindi ha potuto fare una partita in discesa quando poteva. Io trovo però, Antonio, insomma, che legare quello che sta facendo l'Inter in questo momento al tema fortuna sia un po' riduttivo, oh, Carlo? Molto riduttivo. Molto riduttivo. Cioè, la fortuna c'entra poco con quello che sta facendo in questa stagione l'Inter. C'entra pochissimo con il lavoro di Spalletti, l'Inter. E questo lo ripeto da almeno 2 mesi e mezzo, è una squadra estremamente seria. Questo l'ho detto dopo la partita di Napoli, ho usato questa definizione, continuo ad usarla con sempre maggiore convinzione e continuo a pensare che l'Inter stia veramente crescendo fino al livello di, non so se Napoli e Juventus, però più o meno siamo lì. E ne parlavo prima con Giovanni Capuano, su cui non ci troviamo d'accordo su questo punto. Questa stagione non è così dissimile rispetto a quella del primo scudetto di Conte. Citano anche alcuni amici da casa. Un Milan che era più forte della Juventus, un Milan che perse quello scudetto. Ora la Juventus è meravigliosa, è quella che abbiamo visto a Napoli e lo sappiamo. Io penso che quest'anno sia molto difficile la settima della Juventus. Sul Napoli, nell'ultimo mese a me è piaciuto pochissimo, l'altra sera a maggior ragione compresa, e l'Inter è lì, quindi partita scudetto sì. Allora, c'è chi risponde che stiamo facendo i conti senza la Roma, vediamo, però la Roma effettivamente in questo momento è pienamente iscritta alla corsa a scudetto. Sì. Federico D'Alessandria da Juventino, l'Inter ricorda la prima di Conte, settimo la stagione prima, niente coppe, convinzione, ambiente entusiasta, super mister. Sì, però secondo me quest'anno l'asticella è più alta di quella di quella stagione, dove di fatto c'era solo il Milan, ma anche il Milan pronto a comunque a ridurre, così come aveva ridotto drasticamente l'Inter. Poi Ulisse, a questa Inter non manca nulla, somiglia all'Inter di Mourinho con Skriniar come Samuel e Icardi come Milito. Un momento, ragazzi, secondo me state correndo troppo se siete tifosi dell'Inter. Poi stanno arrivando una tonnellata di messaggi sul Milan. Ne leggo uno perché lo riprendiamo dopo la pausa. Un'opinione su Gattuso: provincialismo imbarazzante in campo con Abate, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, fuori Romagnoli per espulsione, mette dentro Zapata e toglie Suso, l'unico che tiene palla, poi arriva il pareggio. Tema che si può affrontare, secondo me oggi il Milan con Montella avrebbe fatto meglio di quello che ha fatto il Milan di Gattuso a Benevento. Minuto, lo dico io. Torniamo, 800 24 00 24, arriva anche più Luigi Pardo. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. La squadra mi è sembrata viva. Dopo io sapevo che oggi trovavamo un Benevento, perché Benevento è da 3-4 domeniche che gioca, che perde le partite, ma non meritava di perdere, una squadra viva, e sapevamo le difficoltà. Bisogna capire che siamo una squadra che oggi al primo errore lo paghiamo caro, e bisogna lavorare su questa roba, questi concetti qua. Questo Gattuso, l'altra faccia di Milano, 800 24 00 24. Montella era impresentabile, Gattuso è forse una toppa peggio del buco, scrive un amico via WhatsApp 349 238 6666. La dirigenza deve prendere un allenatore vero, fatto e finito. E poi ancora sono in tanti che criticano questa prima di Gattuso. Io l'ho detto, adesso coinvolgeremo anche Franco Ordine, che di cose milanista se ne intende. Secondo me oggi avrebbe fatto decisamente meglio l'ultimo Milan di Montella che il primo di Gattuso. Come facciamo a saperlo? Insomma, visti 90 minuti. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Non so che impressione hai te della Milano a due facce. Intanto Juve-Inter sabato è scudetto, è da scudetto o no? Ma assolutamente sì. Io ti ricorderai che una settimana fa sono salito sul carro, nel senso sì, che dopo aver visto l'Inter a Cagliari ho avuto proprio la sensazione di una squadra che, se non avrà problemi di natura fisica, perché poi il punto è sempre quello, secondo me, cioè l'Inter ha una rosa che forse è più lunga di quello che sembrava. Oggi sicuramente è stata una prestazione incoraggiante, molto positiva dal punto di vista anche delle assenze, no? Del fatto che c'erano degli squalificati, però ecco, l'unica vera incognita è quella, secondo me, perché poi, considerata anche l'assenza delle coppe, l'Inter mi sembra che sia assolutamente in corsa. E lo dice la classifica, quindi c'è poco da fare. Sul Milan? È una e sul Milan è presto. C'è un amico che scrive è da psicanalisi. Sì, no, oggi è successa una roba da film, cioè quando abbiamo visto quel calcio. Gli mancava solo il gol del portiere avversario. Però, se voi vi limitate al gol di testa del portiere del Benevento, secondo me avete visto male la partita. No, ma secondo me Benevento è una strameritato di pareggiare. No, assolutamente. Il Milan è una non notizia. Ma certo. Cioè, è una non notizia. Gattuso non, Giovanni dice avrebbe fatto meglio l'ultimo Milan di Oddio, pareggiare a Benevento è... Lo so, notizia, lui, sì, va bene, ok, una notizia, certamente. No, con tutto rispetto, io non, però no, ma non credo che Gattuso abbia rovinato qualcosa in questa difficile prima settimana, quindi non so se sarebbe stato meglio il Milan di Montella. Il Milan, però oggi il Milan ha giocato peggio, credo anche della peggiore prestazione fin qui del Milan di Montella. È quasi ingeneroso parlare. Aspetta che no, invece bisogna parlarne. Franco Ordine, ciao Franco. Eccomi qua, buonasera. Il Milan oggi è stato meglio o peggio del peggior Milan di Montella? No, peggio, nettamente peggio. Sentivo già delle assoluzioni ingiustificate. Vi segnalo soltanto questo aspetto, questo particolare, e cioè se tu negli ultimi minuti sei già in 10 contro 11, togli Suso, che è l'unico capace di palleggiare, di prendersi qualche punizione, di fare qualche dribbling, per mettere dentro il quinto difensore e giochi a 5 dietro, non fai altro che prenderti il Benevento e portartelo in casa. E quella è una conseguenza non matematica, il gol, perché ha, diciamo, tutto un fascino. Il gol è episodico, Franco, però letterario, andiamo, ecco. Letterario, però hai messo le premesse. Pier. Sì, sì, condivido pienamente. Ovviamente l'atteggiamento, insomma, di Gattuso, che è stato proprio quello di chi cercava di portare a casa in qualche modo il risultato, insomma, diciamo non da Milan, però io credo che sia ingeneroso adesso, onestamente, dopo 6 giorni, arrivare a delle conclusioni definitive. Il Milan di Montella è stato un Milan che ha faticato e che non dava una sensazione di crescita nelle 14 partite in cui l'abbiamo visto. Il Milan di Gattuso sicuramente è partito ancora peggio del peggior Milan di Montella, su questo non ci sono dubbi. Però, insomma, Gattuso va valutato 3 mesi, no, ma 4 mesi, decide voi il tempo, non, però un po' di tempo. Non dobbiamo valutare Gattuso, perché diciamo, parte della figura non bella e della prestazione, basta vedere gol a parte che non poteva sbagliare di Kalinic, basta vedere qualche altra esibizione, sono figlie tutti a dei 3 mesi precedenti, e soprattutto mi pare che ormai Gattuso lo dica apertamente e quelli del Milan lo ripetono in privato in maniera ossessiva. In sostanza dicono qui c'è stata il peccato originale è la pessima preparazione fatta all'inizio della stagione. Sai che io non so perché, ma sta roba mi ricorda un anno fa la famosa pessima preparazione di Mancini. No, quindi detto questo, cosa facciamo? Cioè, il preparatore atletico non c'è più, Montella non c'è più. Facciamo chiarezza che di Gattuso non è la colpa, perché dopo una settimana non può essere colpa sua, al di là dei cambi dovuti anche alla volontà di portare a casa il risultato in stile molto italiano. Quindi che si fa? Niente, si fa che devi aspettare che avvenga qualcos'altro, che migliori in qualche modo la condizione, cioè non è che puoi sospendere il campionato e ricominciare. Però a me ha molto colpito una cosa, era una statistica che ho guardato prima, cioè il Milan è arrivato alla 14ª ed era la penultima per chilometri corsi per partita. Tu dici Montella li ha preparati male, Montella ti dice noi siamo abituati a far correre il pallone più che le gambe, e ci possono stare entrambe le spiegazioni. Arriva Gattuso, ti aspetti, anche se lui giustamente ha rivendicato un altro modo di preparare le partite, ti aspetti corsa, grinta, una dedizione diversa anche dal punto di vista fisico. Sapete quanto ha corso oggi il Milan contro il Benevento? Meno della sua media delle prime 14 partite. Secondo me Gattuso ha fallito anche in quello. Io oggi, lasciamo stare il gioco, ci vuole il tempo, mi sarei aspettato un Milan almeno dal punto di vista temperamentale e fisico diverso. Sì, al di là di qualche protesta sguaiata, io questa grinta non l'ho vista. Franco Pier. No, vai. Adesso il fallimento di Gattuso obiettivamente mi sembra ingeneroso, oltre che ingiusto e ingiustificato. Fallimento limitato ovviamente a che cosa ti potevi aspettare da Benevento Milan, eh? No, ma lo circoscriviamo. Onestamente credo che non sia assolutamente da affrontare un ragionamento del genere. Il problema qual è, secondo me? Allora, la materia che sta maneggiando in questo momento Gattuso com'è? Quindi questo è il primo punto. Tenuto conto che abbiamo già dei segnali di ripresa fisica e anche di rendimento, per esempio il Bonucci di oggi è di buonissimo livello, il Chessy di oggi è di buonissimo livello, Bonaventura dopo il gol, prima è stato un disastro, ma dopo il gol e il cross del 2-1 ha cominciato a dare anche lì segnali di vita. Il problema è innanzitutto che questa non è ancora una squadra, che certe scelte che appartengono un po' anche al mercato Borini, ma poi soprattutto voi avete visto Musacchio? Musacchio che non si fa sorprendere da parigini in occasione del possibile gol del Benevento sullo 0-0 e si fa bruciare dal portiere in occasione del 2-2 finale. Voglio dire, ma ormai l'hai studiato, lo hai visto, lo hai capito. Musacchio, per giocare in mezzo all'area devi essere capace di colpire di testa. È inutile, sono delle scelte sbagliate. Che Musacchio ormai deve essere una riserva, così deve essere. Quindi ci eravamo sbagliati tutti, perché avevamo detto e scritto che Musacchio era un buon giocatore, era un eccellente acquisto, l'avevamo detto e scritto tutti, più o meno, no? Non so se l'avevi detto, no, te, io no. Peggio per te. No, io no. Per te. Io non lo pensavo e non lo penso tuttora e non potevo pensarlo. Eccellente acquisto, no, dai. No, che fosse stato un che sia stato quando è arrivato Musacchio, tutti dicevano buon acquisto del Milan, no? Molti dicevano, facciamo così, molti sì, dicevano, quando è arrivato dicevano buon acquisto, sì. No. Vabbè, intanto vi segnalo che Ogbonna ha appena portato in vantaggio il West Ham in casa del Manchester City, a proposito di difensori centrali, di colpi di testa. Grazie Franco. No, volevo farvi solo una riflessione, che è questa. Avrete visto, e credo che Pardo possa essere un buon testimone, avrete visto la bellissima prova, prestazione di Mattia De Sciglio in Napoli-Juventus. Benissimo. Allora, Mattia De Sciglio è stato a fischi cacciato via da Milanello e da San Siro, dai tifosi del Milan. Appena andato in una squadra organizzata che sta bene, che ha voglia e che ha grande motivazione, a dimostrazione che i giocatori in una squadra che funziona funzionano. Bravo. Quindi qui il problema magari non è del singolo di Kalinic piuttosto che di Giovanni Antonio, il problema è che non funziona la squadra. Bravo. Sì, oggi ha funzionato esattamente come prima, ma non per fare un processo a Gattuso, ma perché c'erano troppe attese, io credo, su questo debutto di Gattuso in una partita sulla carta scontata. E il risultato è quello che abbiamo visto. Comunque c'è tempo di parlarne, ci aggiorniamo. Grazie Franco. Ciao. A presto, ci sono. Allora, Pier, abbiamo il traffico, poi ripartiamo e intanto andiamo avanti. Tra l'altro, ho segnato per la terza volta un portiere su azione nella storia del campionato di Serie A. E andiamo a parlare con qualcuno che sa che cosa vuol dire. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Forse è una delle ultime chance, poi mancherà un minuto di recupero da giocare, anche Brignoli a saltare in area di rigore, va Cataldi dentro, Brignoli, ha pareggiato Brignoli, ha segnato il portiere del Benevento, un gol storico! E insomma il gol storico di Brignoli è il terzo, carissimo Pier, di un portiere su azione nella storia della Serie A. I primi due, Michelangelo Rampulla, 23 febbraio 92, Atalanta-Cremonese 1-1, gol al 92esimo, e Massimo Taibi, 1 aprile 2001, Regina-Udinese 1-1, gol all'89esimo. Adesso vediamo se riusciamo a parlare con Massimo Taibi. Carissimo Pier, vi giro un po' di messaggi che stanno arrivando. Il Milan doveva prendere Guidolin, l'avevo scritto anche prima dell'arrivo di Gattuso, questo Sandro da Trieste, cioè Guidolin o comunque diciamo un allenatore già strutturato. Io sono abbastanza d'accordo. Sì, ma io sono d'accordo, nel senso che è ovvio che Guidolin è una scelta sicura, non c'è nessun dubbio, ma non è che il Milan ha preso Gattuso, non è che ha fatto un investimento per Gattuso, ha fallito Montella e si è deciso di promuovere uno che era già banalmente pagato, già banalmente all'interno del settore tecnico, quindi per dargli una possibilità e vedere come se la cava. Non c'è nessun dubbio che l'esperienza di Guidolin sia quella di un allenatore fatto e finito. C'era prima uno dei messaggi che leggevi che secondo me è giusto e alla luce di quello che sta facendo l'Inter è un po' il segno, no? Cioè, i grandi allenatori fanno la differenza, su questo non c'è dubbio, no? Questo è evidente. L'Inter è semplicemente l'allenatore, un grande allenatore. È semplicemente l'allenatore della primavera che è stato promosso nella prima squadra. Quante volte l'abbiamo vista nella storia del calcio, questa roba qui, da stramaccioni in su, in giù, dove volete voi. Normale che l'allenatore della primavera in certe situazioni prenda il posto dell'allenatore della prima squadra, possiamo anche leggerla così. È la terribile parola traghettatore, è una parola che nessuno deve usare ovviamente per rispetto ai confronti di Gattuso, ma che se le cose non dovessero andare bene inevitabilmente verrà usata, nel senso che è ovvio che questa è una scelta fatta in questo momento ma l'ha detto Mirabelli, ha detto vediamo come se la gioca e quando cioè, voglio dire, più chiaro di così vediamo anche come se la gioca Mirabelli, vediamo anche come se la gioca Mirabelli, perché giustamente gli amici da casa sono scatenati sul mercato del Milan, abbiamo parlato di Musacchio, Biglia oggi non sta bene, è partito dalla panchina, Borini è uno degli emblemi di questo mercato, Çalhanoğlu ci viene ricordato, è un altro giocatore che in questo Milan non ha posto, oggi è partito credo con 6 uomini nuovi e 5 vecchi, Gattuso però poi alla fine le scelte sono state molto simili a quelle che aveva fatto Montella e che se ti ricordi pertanto abbiamo parlato, insomma avevano anche un po' indispettito la società. Abbiamo Vincenzo da Pordenone, Michele da Piacenza. Vincenzo. Sì, buonasera, complimenti a tutti per la trasmissione. Volevo soltanto una piccola premessa. Io sono tifoso del Napoli. Volevo fare solo complimenti all'Inter, alla Juventus, alla Roma, alla Lazio e al Benevento perché è entrato nella storia. Però una domanda. Secondo voi, dopo questa giornata, parlando del mio Napoli, come ne esce psicologicamente? Male? Secondo me non benissimo. Male. ma nemmeno così fuori da tutti i discorsi che facevamo venerdì. Beh, Pier, non so, caro. Male, secondo me male. Sì, penso che... Allora, fammi dire una cosa. Io sto aspettando, e lo aspetterò per tutta la settimana, il prossimo che mi viene a dire che la Juventus gioca male a calcio. Perché io lo aspetto qua. Lo aspetto qua in studio. Io sono stufo di sentir dire che la Juventus gioca male a calcio, perché il calcio come sport di squadra è due fasi, in attacco e l'attacco e la difesa. La Juventus a Napoli ha giocato una partita pazzesca, secondo me, a livello di quella che ha giocato a Barcellona, a livello di quella che l'hanno portata in finale di Champions League, che l'hanno portata al sesto titolo. E non smetterò mai di dire che Allegri oggi è il miglior allenatore italiano. Guarda, sono d'accordo sulla partita pazzesca di Napoli e poi se volete ne riparliamo. Per quanto riguarda il Napoli, secondo me esce ovviamente male, anche un po' ridimensionato. L'aspetto più preoccupante, gli aspetti preoccupanti sono due: quello fisico e il fatto che comunque sia non c'è mai un piano B, non c'è mai un'alternativa. Cioè in quei 90 minuti, 77 dei quali il Napoli li ha passati sotto di un gol, abbiamo assistito sempre alla stessa recita. E senza mai niente, senza, è vero che non c'è Milik, che è un giocatore importante nell'ottica di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, però è altrettanto vero che qualcosa lì uno prova a fare, fosse anche semplicemente invertire Mertens con Kai Kon, abbassare Mertens, provare per riportarlo sull'esterno per provare a fargli fare del 2-1. Ma secondo te quante partite come quella di venerdì sera avrebbe vinto il Napoli se non avesse avuto davanti alla Juve? Cioè, perché secondo me, proprio perché esaltiamo la partita perfetta della Juve, noi non possiamo, secondo me, sottostimare quella del Napoli, che ha perso meritatamente, ma non ha fatto una brutta partita. No, secondo me invece no, non ha fatto una brutta partita, nel senso che quando tu vai sotto per dopo 12 minuti e praticamente non sei mai pericoloso, è una brutta partita. Io diciamo non ho condiviso quello che ha detto Sarri al fischio finale, mi è sembrato molto autoassolutorio. Poi se serve per mantenere tranquillità nella squadra, nell'ambiente, allora va benissimo, per carità. Però la sostanza, secondo me, è che la Juve ha stravinto l'altra sera. Ha stravinto perché è passata in vantaggio e non ha praticamente mai rischiato. E se andiamo a guardare le occasioni, addirittura c'era stata l'occasione sullo 0-0 nei primi minuti di Higuaín, c'è stata una palla gol clamorosa nel secondo tempo. Cioè, se tu vai sotto al tredicesimo non puoi non avere occasioni, come quasi non ne ha avuto il Napoli. Quello che penso però è che, essendo un campionato che vede delle differenze così grandi fra grandi e piccole, poi alla fine tenere il passo non è così complicato, è così difficile. Secondo me mai come quest'anno sarà importante arrivare freschi a marzo. Come dice Allegri, dove si decide tutto. Penso... Vediamo se riusciamo, Piera, a fare Michele da Piacenza prima del GR che ci sta aspettando. Michele. Buonasera, vai. Contento, intanto complimenti della trasmissione, contento il signor Genta, perché penso, da tifoso juventino, che con il tasso tecnico che abbiamo in squadra non esprimiamo mai un gioco, diciamo, come dire, spettacolare o propositivo, bene, quantomeno. Questo, bene, è il mio ovviamente pensiero. Bene. Piangiamo su Conte. Vedova di Conte anche lei? No, assolutamente. No. Però... Allora la Juventus è una squadra di merda, perché non riesce a esprimere, perché non riesce a esprimere un gioco offensivo. Ma ha visto? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di calcio o di circo? Mi faccia capire. Stiamo parlando di circo equestre, allora facciamo così. Barcellona di Guardiola, il tiki tac e queste cagate qua. Se parliamo di pallone, allora la Juventus l'altra sera ha giocato una partita pazzesca. Se l'Inter di Mourinho, che è leggendaria, ha fatto il triplete, questa Juventus non ha nulla di meno se non la coppa dalle grandi orecchie. Se poi volete piangere su Conte, fatelo pure. Che non è pochissimo, avere una Champions in meno, carissimo Pier. No? Allora, a proposito di squadre organizzate, però il paragone con l'Inter di Mourinho ci può stare. Ringrazio Michele. Allora, 800 24 00 24, di Napoli-Juve torniamo a parlare dopo il GR delle 18, quindi fra 5 minuti, e cercheremo anche di capire come escono, anche guardando alla super sfida di sabato sera Torino-Juventus-Inter. Ci sentiamo tra un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa flessione là davanti in termini realizzativi la preoccupa, visto che sono lì le altre? Stai parlando di tutte squadre che rappresentano società nettamente più forti di noi, quindi è normale che siano lì. Non è che Napoli può partire in una stagione dicendo che si sente favorito per lo scudetto, perché sarebbe una presunzione. Noi non siamo presuntuosi, siamo gente che lavora, sappiamo in questo momento di avere qualche problemino in certe zone del campo, ma stiamo, secondo me, giocando esattamente come prima. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Un bel test, delle ragazze hanno fatto bene, sono partiti bene nel primo tempo, anche nel giro del gioco, a livello tecnico. C'è da fare complimenti a Napoli, perché ha fatto una grande partita, ha dimostrato ancora di essere la favorita dello scudetto, perché è ancora in testa alla classifica e gioca un calcio veramente piacevole. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Sappiamo che a certe condizioni siamo ancora noi. Non è facile rimetterle in campo settimana dopo settimana, anzi ogni tre giorni spesso, perché c'è un dispendio di energie nervose enorme. Però nonostante questo siamo ancora qua. Io sono ancora qua. Allora, questo è quello che è successo venerdì sera. Venerdì eravamo qui a parlare di match point, scudetto quasi, del Napoli. Invece che abbiamo preso in prestito, Pier? Innanzitutto grazie, perché quella intervista lì di Buffon era in diretta su Premium e ho citato Vasco, evidentemente ci abbiamo pensato in tanti a quella frase di Buffon. Ma insomma, no, la Juve ha dimostrato di essere la Juve, cioè di essere una squadra che comunque ha una capacità forse unica, o comunque insomma strepitosa nell'affrontare certe partite, e insomma quando il gioco si fa duro la Juve. Ci poteva essere il sospetto prima e adesso abbiamo la certezza, ha vinto una grande partita. Ripeto, per me è stata una grande partita, non condivido molto i ragionamenti di Sarri su questa partita. Penso che le cose che ha detto, quando ha detto che insomma il Napoli ha fatto di più della Juve, cose di questo tipo, insomma affermazioni ottimistiche, sono giustamente improntate alla necessità di farle, cioè sono un modo di tenere evidentemente alto giustamente l'umore della truppa, perché non ci mancherebbe altro. Napoli ha 38 punti e deve essere orgoglioso del cammino che ha fatto fino a questo momento. Sì, ha detto anche un'altra cosa, ha detto anche un'altra cosa che mi ha abbastanza colpito in negativo. Saluto intanto Pierpaolo Marino, ciao direttore, buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio. Allora, lui ha detto se avessimo avuto noi Higuain avremmo vinto 1-0. Secondo me con 10 parole ha cancellato 2 anni di discorso sulla supremazia del gioco di squadra, l'importanza sul lavoro, eccetera, eccetera, eccetera, e poi ha mortificato un attacco che insomma non mi sembra malissimo, no, direttore? No, assolutamente no, però a me sembra di cogliere più una frecciatina in altre sedi, perché in realtà lui voleva dire Higuain ce l'avevamo noi e non ce l'abbiamo più. Cioè, se avessimo avuto Higuain e Mertens insieme sarebbero state, sì, una caterva di gol. Però mi sembra un tema un po' vecchio, dai. Questa roba qui è un errore. No, ma l'avete visto? No, io questo se sia un errore o meno non lo saprei dire, però è la spontaneità del dopo partita, perché almeno vengono fuori le cose genuine, non le dichiarazioni stereotipate che sono solite, perché avete visto Sarri veramente accusava il colpo. Io non so se avete visto il viso, i gesti. Beh, ci mancherebbe altro, scusa direttore, ma anche queste cose qui, no, cioè, non per puoi dire di Dio, per amor di Dio, è giusto, ci mancherebbe altro, però io è la prima volta che vedo un Sarri veramente così tramortito, tra virgolette. Ma è stato tramortito da una partita perfetta della Juventus. La Juventus è andata lì e ha messo le cose in chiaro. È stato annientato tatticamente, soprattutto. Esatto, tatticamente. Poi mi fa impazzire Allegri quando va in conferenza stampa e dice: ah, ma io di tattica non capisco nulla. Ci prende per il naso tutti meravigliosamente. Ma certamente. Meravigliosamente. Allora non mi va che Sarri dica possesso palla. Sappiamo benissimo che nel calcio il possesso palla è la statistica più effimera che possa esistere. Poi non rimettiamola sul piano del fatturato, perché quest'anno con l'Inter, agli stessi giocatori dell'anno scorso, Suning non ha tirato fuori un tollino, come diciamo a Milano, e non tirerà fuori un tollino nel mercato di riparazione. E qualcosina ha speso, cioè non è che non ha speso niente. Scusa, Vessino non gliel'hanno regalato, Skriniar non gliel'hanno regalato. Perfetto, e ha fatto dei grandi acquisti. Sì. Poi Spalletti ha rimesso a posto una squadra che già c'era l'anno scorso. Icardi è un giocatore straordinario. Il Napoli ha fatto un mercato al contrario, l'abbiamo detto tutta estate, tenendosi i suoi pezzi da 90, e questo è stato un grandissimo colpo. Quindi possiamo dire ok, De Laurentiis al braccino, bene, al braccino, non ha comprato altri giocatori, però non rimettiamola sul piano del fatturato. Secondo me in questo momento lo scudetto è più che mai, il titolo è più che mai vacante, ma anche perché non giocano. Bravo. Ma anche perché non giocano. Bravo. Adesso, questa è una battuta, È chiaro che se arrivassero degli altri campionissimi al Napoli giocherebbero, però diciamo che Sarri da questo punto di vista non è un allenatore che proprio indugia molto nella sperimentazione, nel turnover. È un allenatore che ha le sue gerarchie molto precise che funzionano. Attenzione, il Napoli ha 38 punti, se no improvvisamente sembra che sia la stagione del Napoli sia diventata negativa. No, ma per carità, nell'ultimo mese non mi ha convinto. Però il Napoli. Sono d'accordo con te quando... Sì, ma soprattutto quando io sento dire appunto quei ragionamenti tipo non siamo da scudetta, quella roba lì mi sembra un po', un po' assurda, nel senso che non è vero, non è la favorita, possiamo essere d'accordo sul fatturato che non è all'altezza di quello della Juve, soprattutto di quello della Juve, però ci fermiamo, il dovere di crederci, allora andiamo in campo gli estratti contro, erano 5. Però mi pare di capire che il direttore Marino stesse dicendo una cosa diversa. Guardate che il Napoli l'ha subito molto il colpo. E siccome tu spesso, direttore, dicevi vedremo il Napoli alla prova della prima sconfitta per capire come la gestisce, da quello che ho capito non ti è piaciuto tantissimo come hai iniziato a gestirla. Sicuramente, perché se il dopo e il viso di Sarri e le parole di Sarri che non sono di riscossa ma sono di dietrologia, chiaramente io poi non è che devo gettare la croce addosso a Sarri, perché io se fossi ancora dirigente del Napoli, come lo sono stato per due cicli del Napoli, porterei il caffè a letto a Sarri per quello che ha fatto, perché il Napoli secondo me non è che sia una squadra che deve stare tanti punti davanti alla Juventus, all'Inter, in questo campionato magnifico a cui stiamo assistendo, perché non accadeva da 10 anni che ci fossero 4 squadre a lottare per lo scudetto. E niente, io però mi preoccupo per il futuro, perché se quello è il viso e l'atteggiamento di un allenatore che si presenterà per chiedere la riscossa ai suoi calciatori, non sono quelle le tematiche che bisogna usare. Cioè, se tu fossi il direttore sportivo, direttore generale del Napoli, oggi cosa avresti fatto? Andrei subito a parlargli e a dirgli guarda che siamo in piena corsa e che guardiamo avanti e non guardiamo indietro, perché poi tutte le squadre che Inter, Napoli, Juventus e forse anche la stessa Roma se dovesse vincere il recupero con la Sampdoria stanno andando oltre quelli che erano i rendimenti degli anni scorsi, quindi non so chi si possa rimproverare qualcosa quando fra l'altro il verdetto accadrà tra un girone e partite. In qualche partita, sì. Sì, però effettivamente il colpo è stato duro e l'ha incassato, e adesso siamo qui a verificare che cosa succede. Tra l'altro appena pareggiato al Manchester City, che qualcosa nel prosieguo della stagione del Napoli significherà 1-1 contro il West Ham United. Poi vediamo, perché dopo parliamo della Premier e capiamo che cosa farà il Manchester mercoledì in Ucraina. Grazie direttore. Ciao direttore. Ciao, buonasera. Abbiamo Stefano e Mauro. Faccio Stefano prima del traffico. Stefano. Salve, buonasera a tutti. Vai. Io da Firenze volevo dire agli amici juventini che non si devono assolutamente lamentare di Allegri, che si è portato al bar, se l'è proprio mangiato Sarri tatticamente. Si è messo lì 4-4-1-1, linee strette, non ha concesso le ricezioni nei mezzi spazi e Napoli è andato a sbattere contro il muro. Finita lì. Cioè, amico mio, a me io sono della Fiorentina, quindi io sono agnostico, me ne frega nulla, te lo giuro, ma chi mi conosce, Giovanni Pardo, a tutti noi me ne frega nulla. Semplicemente mi piace lo sport e mi piace questo gioco. E quindi dico, Monumento ad Allegri, ce l'hai incartato Sarri, niente da dire, però le vedove di Conte sono sempre in agguato, perché perde poi la prossima partita, magari a Genova la Sampdoria ha già giocata, no? Ne perderà un'altra, e allora saranno tutti lì a dire cacciamo Allegri, e quello lì non vale niente, e Sant'Antonio pensaci tu, eccetera, perché funziona così. Mauro, dai che lo facciamo prima del traffico, Mauro. Pronto, buonasera, grazie. Vai. Della convocazione. Velocissimo, vi avevo già chiamati 3 mesi fa, avevo detto che gli acquisti del Milan erano quasi tutti toppati. Rodriguez, Biglia, che sì, che fa le partite buone contro Benevento a malapena. Ma qui ci vuole uno psichiatra, perché quelli che dicevano che Montella era un brocco del Milan erano gli stessi che dicevano che Allegri era un brocco e non capiva nulla. Secondo me basterebbe per parlare di Milan-Benevento 2-2, Benevento-Milan 2-2, basterebbe un allenatore. Ce l'ha spiegato prima Franco Ordine, l'avete scritto in tanti. Se tu togli l'unico che tiene palla sulla tua tre quarti e metti un altro difensore, ti porti il Benevento in area di rigore, poi può succedere tutto. Può anche succedere che finisce 2-1, ma succede che in una partita che hai sofferto finisce che prendi gol e pareggi. Secondo me è questo, l'inesperienza si paga. Traffico, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. convocati. Attenzione a Higuain che si propone sul lato destro, palla per lui, c'è un buco clamoroso, opportunità e c'è il tocco vincente, 1-0 Juve, 12 minuti, l'esultanza del pipita Higuain. Le telecamere vanno su De Laurentiis. Prima hai mimato l'esultanza come faceva Luca Toni una volta e con l'altra hai scrutato lontano. Sbaglio se dico che hai scrutato verso il tuo ex presidente? Avevi la mano come il capitano del Galeone. Sì, ma non l'ho visto, forse si è nascosto. Non l'ho trovato. Potrebbe fare a meno di rispondere al pubblico, però se si parla di calcio lui è un fuoriclasse. E probabilmente se era sempre un noi era 1-0 per noi stasera. Quelle 3 anni che ho vissuto a Napoli non cambieranno mai, anche mi fischiano e mi insultano tutte le volte che vengo qui. E Maurizio, speriamo che può fare una grandissima carriera di allenatore perché lo merita, quindi un grandissimo saluto a lui. Eh sì, perché Higuain, carissimo Pier, è stato un fattore non da poco nella partita di venerdì sera. Oggi ho letto una statistica, a me piacciono da impazzire, con il cambio di passo di Higuain: nelle prime 13 partite stagionali 4 gol, nelle 7 successive 7. E ha ricominciato a segnare come un pazzo. Con il gol di Napoli, Higuain ha fatto il secondo migliore inizio di campionato a livello numerico, ovviamente a parte quello della stagione in cui arrivò a 36 con la maglia del Napoli. E secondo me questo significa qualcosa. Saluto Nanu Galderisi, ciao Nanu. Buonasera a tutti, ciao, ciao Pier, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Siete d'accordo che è stato criticato un po' troppo in fretta Higuain? Ma con che facilità è stato criticato? Ma con una leggerezza pazzesca. Cioè, io capisco che alla Juventus si pretenda sempre tanti gol da un giocatore così importante, però è proprio in quei momenti lì che un giocatore importante deve essere importante. E credo che la Juventus, la base della Juventus, io la conosco perfettamente, è proprio quella di dare forza a chi ha queste grandi qualità, ma non solo tecniche, qui ci vogliono anche qualità mentali, perché andare a giocare in uno stadio che ti grida contro e fare quello che ha fatto con una mano, con un'operazione che sembra una stupidata, ma io l'ho fatta e ci ho messo una settimana in più di lui, ma è dura nella testa, perciò lui è molto forte mentalmente, di conseguenza ti tira fuori anche prestazioni non eccezionali, ma al momento giusto si fa trovare al posto giusto. E Beppe, a me sì. A parte lo dici, cioè noi abbiamo sempre detto Higuain, ma che scherziamo, è un falso, ma sì, problema, era pure facile, dai scusami, ma sai, tanto parliamo con quelli Higuain è imbrocchito, è grasso da incendiare. Questo è il problema, sì. Che qualcuno ci ha scherzato un po' troppo, perché in effetti lui tende qualche volta ad essere, non lo so se la maglia strisce o quello, ma che sì, però no, qualche chiletto in più dà l'impressione, ce l'ha. Gli piace magnà, ragazzi, non è un che si ripresenti ad agosto, non è ottima attaccante, così gli porto da mangiare io. Bravo Nanu, datemelo a me un attaccante, dalla me, se ne avevo uno che non era proprio, io avevo un giocatore all'Avellino, l'ho avuto a Benevento, si chiama Evacuo, un grande attaccante. Felice, un ragazzo strepitoso, e anche lui faceva fatica a partire perché era molto macchinoso sotto certi aspetti. Ma ragazzi, ma in Lega Pro o in Serie B, un giocatore come lui, avercelo. Ci sono quei giocatori che vanno sostenuti, vanno indirizzati, vanno amati, come tutti, insomma. Sì, che poi scusami, secondo me Higuain ha stravinto in campo segnando il gol di Higuain, era praticamente scontato, cioè l'abbiamo capito tutti, no? È vero. Poi mi è piaciuto per l'esultanza, perché è così che si fa. Perché è così che si fa per rispetto ai tuoi tifosi. Poi hai Bravissimo. Giocato in quella squadra lì, fa niente. Ok, fa niente, esulti perché in quel momento lì sei felice, perché hai segnato un gol, un grandissimo gol, un gol pazzesco in una grande partita, e ha vinto come abbiamo sentito dopo la partita, quando ha detto il presidente non l'ho visto, mi spiace versare, gli auguro ogni fortuna, abbiamo vinto, ciao a tutti, mi fischiano, mi insultano, vabbè, pazienza. Mi dai uno spunto per dire che confermo assolutamente, io non sopporto l'attaccante che va in gol. Non dirlo a me, Nanu. Non lo dirò a me, mi fa venire le bolle. Io vivevo di notte sognando di fare gol e di andare alla Juventus, la mia al Milan, a chi vuoi, dove hai giocato tu contro gli avversari, anche più bello, diciamoci la verità. Sì, ma poi sai cosa succede secondo me? Che conoscendo il tipo di giocatore, per esempio, adesso parlo di me così non evito di toccare altri, cioè Galderisi lo conoscevano a Torino, a Milano, a Verona, Milano. Quando io ho segnato dalla Juve ho segnato al Verona, e al Verona ho segnato alla Juve, dal Verona ho segnato al Padova, dal Padova ho segnato al Verona. Cioè io la stima non me la guadagnavo facendo il falso. Bravo. No, forse falso è una parola grossa, diciamo il paraculo mi sembra la parola corretta. Il diplomatico, paraculo. Il democristiano. Godevo di questa cosa perché credo che è una questione di rispetto, è una questione anche di rispetto per te stesso. Bravo. E per chi ti paga in quel momento lì. Dubbio. Esatto. Allora, esatto, adesso che abbiamo fatto dubbio, giustamente diciamo, Pierre l'elegia di Higuain, però se no, una cosa sola, fra esultare e polemizzare c'è comunque una via di mezzo, ma ripeto, è legittimo che Higuain abbia fatto quello che ha fatto, non c'è alcun dubbio, insomma, lì è veramente una storia che rimane, una storia di antipatia ormai irrisolvibile, è arrivato il tweet subito del fratello, cioè è veramente quella una guerra fredda, una delle più grandi inimicizie che interessa anche relativamente Pierre, cioè secondo me una delle grandi segnali che ti faceva pensare che il Napoli fosse cresciuto come ambiente è che onestamente alla vigilia questa cosa del ritorno di Higuain stavolta non era stata caricata dei mille significati, a differenza di quello che era successo l'anno scorso. Allo stadio in realtà era così, è stata una cosa diversa, e col senno di poi io credo che comunque non sia stata una grande idea fischiarlo ad esempio per tutto il riscaldamento, perché comunque insomma sono esseri umani e già una partita così uno la sente, se in più lo fai sentire ancora più attaccato, ancora più gli dai una motivazione superiore, non c'è alcun dubbio. Provando un attimo a tornare indietro di 72 ore, lui ha fatto una grandissima partita, ciò non toglie, chiedo a Nanu Galderisi, che Allegri gli stia cambiando faccia. Oggi abbiamo letto che Barzagli ha dovuto parlare giovedì per tenere unito il gruppo, la Juve ha fatto una grande cosa a Napoli nella notte più importante, però questa Juve non è ancora quella che ha tutte le certezze, credo, che aveva anche l'anno scorso. Assolutamente sì, credo che la difficoltà della Juve quest'anno, a parte che la Juventus parte sempre un po' così, poi ci sono stati secondo me delle caratteristiche dei giocatori che sono cambiate, e sono cambiate uno come Manzo, che secondo me io l'ho visto tutto l'anno scorso, ancora adesso lo commento, cioè vederlo sulla fascia era un sacrificio anche per me, anche se poi devo dire che tutte le volte che finiva la partita dovevo fargli i complimenti, perché in effetti devo dire che la volontà, la determinazione, però non è il suo ruolo, e quindi adesso è una riserva, e con l'arrivo di un giocatore come Douglas Costa, che per me è un giocatore incredibile, se riesce a dare continuità a dei colpi unici, poi c'è Bernardeschi, cioè hanno preso proprio giocatori che servono per dare più forza e essere un po' più quadrati per caratteristiche e dare più sostegno a Higuain, e allora lì secondo me il lavoro di Allegri è fondamentale, perché puoi giocare a 4, puoi giocare a 3 in mezzo al campo, puoi fare tante cose, ma devi dare secondo me un po' più certezza, perché sennò siamo sempre con quel dubbio di Mandzukic che deve diventare una punta nel momento che la palla va sia a destra, poi deve diventare un esterno di centrocampo quando c'è da difendere, è tutto un po' più, e secondo me lui sta lavorando bene Allegri, cioè lo sta mettendo piano piano in condizione alcuni giocatori di poter fare la differenza, perché tu puoi giocare veramente con 2-3 quartisti dietro la punta e avere 4 centrocampisti di cui Cuadrado da una parte e Alessandro dall'altra con 3 difensori, puoi fare veramente tutto. E queste vittorie, questo momento positivo dovuto anche all'esplosione di nuovo di un attaccante come Higuain, secondo me porta la Juve ad essere ancora, per rosa, per esperienza, per capacità. Io penso che la partita di Napoli ha dimostrato che la Juve queste partite le sa giocare. E tu pensi che sia ancora la favorita numero uno? Ma io l'ho sempre pensato, anche se mi illumino quando vedo Napoli, mi illumino perché vedo delle cose che un allenatore, che un tifoso, che un giocatore vorrebbe vivere, perché vede giocare a calcio. Però poi cosa succede? Che qua ci sono delle partite dove purtroppo tu spendi tanto, non riesci a raccogliere, e non sarà solo con la Juventus ma sarà anche con altre squadre, hai bisogno di alternative e Napoli oggi non le ha. Non le ha, dai, non le ha, ragazzi, ragazzi, non le ha, perché ma neanche tatticamente, dai. Ragazzi, ma una squadra sì, deludente, però attenzione adesso a fare il funerale al Napoli, perché ha perso in casa contro una grande Juventus. Attenzione. Però qualche alternativa serve, qualche alternativa allora, serve, secondo me. Vi devo fermare, dai Nanu, poi abbiamo la pausa, prego. No, volevo solo dire, mi sarebbe piaciuto vedere negli ultimi 10 minuti non solo arrivare sul fondo e cercare di mettere palle forti o cercare di bucare una linea quasi impossibile, con qualche pallone un po' diverso, e avrei voluto vedere, che ne so, Inglese, lì in mezzo all'area negli ultimi 6-7 minuti, un giocatore strutturato che forse poteva dare una mano ai tre piccolini per far danni. Grazie Beppe. È sempre un piacere. Ciao. Alla prossima, un abbraccio. Alla prossima anche con te, Pier. Ciao Pierino, a domani. Ciao ragazzi. Che poi ciao, domani, ciao, domani ciao. Vi diamo ciao. Anche tutti gli aggiornamenti sulla schedina, che è ancora work in progress. Anche se, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. La battuta di Mamedi, ancora Taibi di testa, c'è il gol di Taibi, c'è il gol di Taibi, questo è un evento storico. Era un evento storico perché prima di Taibi, 1 aprile 2001, c'era riuscito soltanto Michelangelo Rampulla, 23 febbraio 1992, oggi c'è riuscito Alberto Brignoli, 95esimo di Benevento Milan. Massimo Taibi, ciao. Ciao ragazzi. Come si fa a fare gol da portiere su azione? Perché poi ci sono nel campionato di Serie A quelli che l'hanno fatto su calcio di rigore: Lucidio Sentimenti, Antonio Rigamonti, c'è Marco Amelia che l'ha fatto in Coppa UEFA. Come si fa? Ma quella pazzia che contraddistingue il portiere, no? Praticamente, se vediamo anche i casi, evidentemente, anzi sicuramente sono casi sporadici, dimostra che è una cosa molto difficile, ma non la bravura o meno, perché comunque per fare gol portiere ci deve essere tanti di quelle componenti che devono andare bene, come è successo a Michelangelo. Anche il fattore C, anche il fattore C. Molto fattore C. Quel componente intendevo il fattore C. Ma è vero che ci sono allenatori che non amano il portiere che va in the box? Guarda, io ti dico la verità, io feci qua a Reggio perché sono partito, avevo un allenatore del Colomba che mi dava fiducia in questo, ma diversi anni prima, quando avrei voluto, ma non per far gol, perché quando andavi in attacco era per far confusione, per mettere un po' di adrenalina, un po' di confusione all'avversario. I portieri ti mandano a quel paese, gli allenatori ti mandano a quel paese, ti faceva ritornare subito, lo chiedevi, ti bloccava subito. Ma non perché c'è il rischio di prendere il gol, che magari al 95esimo non interessa, ma perché rischi di rovinare magari uno schema? O questo, oppure lo vedono come un atto di goliardico da parte del giocatore, di esuberanza. In quel momento loro magari pensano che un momento più determinante può essere, invece il portiere la va a far rovinare, probabilmente con uno schema, ma anche perché va a fare un gesto lui plateale. Invece io ero del parere da dire dei gol, anche sempre gol, quando il portiere, io da portiere, quando venivo un portiere a saltare, un po' di problema li creava, perché tu quando prepari tutto non prepari la marcatura sul portiere avversario. Quindi c'è anche un problema, sì, ormai, però quando tu studi la marcatura sui calci d'angolo, ad esempio, o sui calci di punizione, ti metti a zona, oramai si mettono praticamente tutti a zona, e quello in più ti dà fastidio. Sì, metti il centravanti, no? Ma sai, a zona effettivamente hai ragione tu, tutta zona, chiunque ci sia, guardi la tua zona. Io dicevo, quando giocavamo noi c'era più la marcatura uomo in aria. cosa che fanno anche alcuni. Prima della partita si andava e diceva l'attaccante, il centravanti lo marchi tu, quello, cioè ognuno avesse un nome. Quando tu vedi il portiere dell'avversario, non è che tu lo pensavi nella partita. In una frazione di secondo devi mandare uno che magari in quel momento non è in mercatura, urlargli di andare con il portiere. E creava un po' di scompiglio, questo sicuramente. Sì, ma non puoi mettere il centravanti? Cioè tu dici, ok, sale il portiere, ti metto, sale, che ne so, Reina, ti metto Higuain. Tu, sai cos'è, il problema è che marcare un portiere non è facile. Oh, pigli per la maglietta. No, ma non lo sai, perché la verità è che non sai dove va, non è codificato. Non è codificato. Esatto, nessuno lo conosce come attaccante, quindi. No, se no usi le solite mosse, no? Gli metti una mano nei pantaloncini. Effettivamente, se tu lo vedi, gli fai le carezze sulla testa. Esatto, come fanno con gli altri giocatori in aria, lo devi cercare di sollevare. Anche perché su un'acrobazia del genere di Pignoli oggi, se noi ci pensiamo, è un'acrobazia da portiere, per cui. Volendo, bisognerebbe stare un po' più attenti quando arriva un portiere in aria, perché ci può essere questa imponderabilità, questa sua estrosità che può veramente far male. Si muove proprio in maniera diversa. Ma chi era il portiere di quell'Udinese? Te lo ricordi? Il mio amico Gigi Turci. Tuo ex amico, no? No, non ti nascondo che quando feci il gol ho provato un senso di imbarazzo nei suoi confronti. Sai, da fine partita, sai, fare un gol al tuo collega. Cioè, per amore di cielo, fa parte del gioco se tu ci pensi, però mi sembrava di avergli fatto un torto, non so se mi spiego, una cosa tra portiere, non so perché, ma avevo questa sensazione, quando vedevo ero un po' timido nei suoi confronti, un po' mi vergognavo, pensa a te che assurdità. Sì, beh, perché parte, hai un po' l'impressione di averla fatta sporca. Beh, d'altra parte, se un portiere viene lì, tu fai gol, cioè come minimo nel tunnel degli spogliatoi lo prendi a scarpate, no? Perché ti offendi, dai, ma Taibi ha ragione, Massimo ha ragione, perché insomma è un grande affronto per un portiere beccare il gol dal tuo collega, a meno che il portiere avversario non sia Higuita, che si chiamava quell'altro che faceva il gol su punizione? Cilavert. Poi c'era quello Ceni, quello brasiliano. Rogerio Ceni. Sì. Però fare gol così come è successo oggi ha un gusto tutto particolare. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Che Taibi attraversa con quella bomba. Milinkovic Savic, portiere di riserva del Toro, che dicono essere specialista delle punizioni. Primo aprile 2001, comunque Massimo Taibi, 23 febbraio 1992, Michelangelo Rampulla. E ora la galleria si è completata con Alberto Brignoli, 3 dicembre 2017, 81esimo di Manchester City, West Ham 1-1, il pareggio di Otamendi dopo il gol di Ogbonna. Andiamo in Inghilterra. Hopper. Straight through there. Hopper is explaining himself to the players before going over to meet with the referee who is sending him off. The red card, I didn't see, I was not even looking in that direction. I just know that Paul is frustrated, a bit disappointed with this colleague Koscielny with this kind of reaction. Everybody knows that Paul is a clean player. Questo è Mourinho che se l'è presa ieri per l'espulsione di Pogba, che non ci sarà nel derby di domenica prossima, ore 17.30, ore 17 lo seguiremo, Manchester City contro Manchester United, in casa dello United. In questo momento mancano 8 minuti alla fine della partita del City col West Ham, lo United ci arriverebbe a 6 punti di distacco e quindi questo raddoppierebbe il valore di questa partita. Federico Zancan, ciao. Ciao, saluto a tutti. Non stiamo vedendo il miglior Manchester City della stagione? Sì, non posso commentare tanto perché sto rientrando da San Siro, non ho visto molto. Però ho presente un po' le ultime partite, tutte le partite del City questa stagione, e le ultime ci dicono che è una squadra che un pochino in difficoltà sembra essere. Nel senso che fino a un paio di partite fa dominava tutti gli avversari, adesso sono qualche difficoltà in più, forse anche normale, dovuto al fatto che è una squadra che sta giocando a un ritmo, a un livello impressionante dall'inizio della stagione. Dunque un piccolo calo c'è, però attenzione perché entriamo nella zona Manchester City che continua a vincere le partite negli ultimi minuti, ne ha vinte 3 di fila tra campionato e Champions League. Vorrei che succedesse la stessa cosa. Vediamo, 7 minuti e mezzo siamo qui, ve la raccontiamo prima della fine di questa trasmissione come va a finire questa partita contro il West Ham. Quello che ci racconti non è una bella notizia per il Napoli. Sai, soprattutto per il Napoli ha segnato questione. Il Manchester City, ecco, carissimo Federico Zancan, so, perché di solito segna lui all'ultimo minuto, negli ultimi minuti, sette minuti alla fine ha segnato il Manchester City. Sì, restiamo sul Napoli, poi lo raccontiamo. Sì, per il Napoli è un'altra questione, nel senso che ovviamente il City ha già in testa il derby di domenica prossima e la trasferta di Champions League è un piccolo intoppo di cui Guardiola avrebbe fatto a meno. È chiaro che il Napoli deve sperare che il City voglia continuare questa incredibile striscia di vittorie, andando a vincere ancora lo Shakhtar, ma io credo che giocherà con una squadra molto lontana da quella che è la formazione tipo, la squadra migliore per forza di cose, visto che avrà poi un derby domenica con l'United che già può essere decisivo per il campionato, perché se il City si presenta con un vantaggio di 8 punti e va a vincere al Trafford, quasi finita. Sì, la formazione ribaltata è una costante di Guardiola nelle seste partite della Champions, l'ha già fatto tante volte con il Barcellona, l'ha fatto con il Bayern di Monaco. Secondo me non è una bella cosa, anche se comprensibile, soprattutto da parte di uno come Guardiola, che parla molto spesso di etica sportiva, di comportamento e di tante cose giuste. No, Federico. Sì, anche se, guarda, sono andato proprio a rivedermi tutte le partite che Guardiola ha giocato da qualificato e da certo del primo posto. È vero che ha sempre giocato con squadre rimaneggiate, però solo una volta ha perso, tra l'altro proprio con lo Shakhtar, non è un bel precedente. Peraltro con lo Shakhtar, se non sbaglio, era già sicuro il terzo posto, quindi non ha inciso in quel girone e non ha mai regalato delle partite, questo va detto. Chiaro che se vai a giocare con Agüero, Gabriel Jesus e De Bruyne è stato squalificato e hai possibilità, io credo che il City ruoterà i giocatori, e quindi non so, mi sembra abbastanza complicato vada a vincere in Ucraina, anche per ovviamente il buon lavoro, il buon valore dello Shakhtar, che non è non va a massacrarsi, sarebbe insensato andare con una partita come il derby di Manchester alle porte, sarebbe abbastanza insensato andare a scannarsi su quel campo inutilmente, no? Intanto il gol era di Silva, minuto numero 83, il gol del 2-1 del Manchester City, e adesso il West Ham United si sta riversando nell'area del Manchester per provare il pareggio, a testimonianza che non è il miglior Manchester della stagione. Prima di salutare Federico Zancan, volevo interrogarlo su questo, e cioè la Premier che rischia di chiudere i battenti a metà dicembre è una notizia. Sì, perché si aspettava grandissimo equilibrio, no? Ci sono tantissime squadre forti. L'anno scorso è successo che Conte quasi ha ammazzato il campionato, anche se non era deciso così presto. Quest'anno rischia di ammazzare il campionato il City. Ha avuto bisogno di un anno di rodaggio Guardiola, sinceramente per l'organico aveva già l'anno scorso, io pensavo che vincesse, non che dominasse ma che vincesse. Quest'anno è un salto di qualità incredibile, lo United ha retto finché ha potuto, può ovviamente ancora riaprire tutto vincendo, però obiettivamente mi sembra il gradino sotto rispetto al Manchester City come qualità di gioco, capacità di andare a segnare davanti con tanti giocatori, non ha quel potenziale offensivo. Mourinho è stato molto criticato perché spesso va a giocare in modo un po' troppo difensivo contro le big in trasferta, ieri ha vinto una grandissima partita, assolutamente difficile contro l'Arsenal, forse per tenere il passo di questo City avrebbe dovuto fare qualcosa in più. C'è stato un piccolo calo del Chelsea che ha perso subito contatto, Liverpool, Arsenal, Tottenham sono tutte buone squadre, ma non del livello del Manchester City, lontanissime. Così si spiega il divario. Grazie Federico. Grazie a voi, un saluto. Collega di Sky Sport che sentiamo spesso sulle partite della Premier League, ultimi 3 minuti e mezzo con il West Ham che sta ancora insistendo per trovare il pareggio in casa del City. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, rispondo a tanti. Toldo non ha segnato contro la Juventus nell'ottobre del 2002 perché poi alla fine sbucò un piccolo tocco di Vieri, mentre un amico Fabio scrive e ricorda che c'era anche Dragan Pantelić che segnava da portiere su punizione e rigore. Torniamo subito. Vero. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono passati più di 30 anni dall'ultima apparizione di Alfa in Formula 1 e oggi credo sia un momento speciale non solo per noi ma anche per il nostro paese. Sono felice di annunciare che Sauber ha scelto di affiancare Charles Leclerc a Marcus Ericsson come coppia ufficiale di piloti della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 Team per la stagione 2018. Carissimo Leo Turrini, ciao. Allora, volevo dire una mio cosa, fratello Turrini. Sergione Marchionne, intanto sono stupito che voi due lavoriate di domenica, sì. È una bella cosa. Ma la smetti no. Però no, va benissimo Leo, perché siamo qui tutte le domeniche. Sulla Fero Cormano, quando sono fermo, voi alla domenica non ci siete mai. No. Comunque sei volevo distratto. Dire questo, scusate, Marchionne ha detto 30 anni che non c'era l'Alfa Romeo. Più o meno lo stesso lasso di tempo che Juventus-Inter non era così importante come sabato prossimo. Adesso vi dirò, citando il manifesto quotidiano comunista che dopo la sconfitta elettorale di chi dell'83 titolò "Non moriremo democristiani e noi interisti non moriremo con la Juve, sempre campione d'Italia". Eccomi qua. Senti, ma è partita, sarà partita Scudetto? Adesso diciamo che qualcosa no, vale, sì o no? Non è decisiva, no. Ma comunque l'Inter è una sfidante. Inter, cosa vuoi sapere? No, ho già capito. No, voglio sapere sull'Alfa Romeo e sulla Ferrari, perché ieri Marchionne ha detto. Mi avete chiamato per provocarmi, perché l'Inter è prima di classifica, non succedeva dai tempi in cui andavo a cena con Angelillo, Elenio Herrera, eccetera. E lasciatemi godere questo momento. Siamo molto felici. A sabato penseremo, sabato poi. Voi durante la settimana chissà come scalderete la colla, vi conosco. Sì. Quindi sei talmente contento, che sei disponibile a vedere la Formula 1 con l'Alfa Romeo ma senza la Ferrari, no? Beh, comunque vi saluto Ventura da Zanzibar, perché non vorrei che vi fosse sfuggito che ha mandato un tweet a gente, Capoaro, dicendo cari amici, bla bla bla. No, beh, allora il discorso dell'Alfa Romeo adesso è molto semplice da un punto di vista di immagine. Marchionne ha mantenuto una promessa che aveva fatto non appena diventò presidente della Ferrari. Ricordo il primo incontro con noi scribacchini del ramo e lui disse: il mio sogno è riportare Alfa nei Gran Premi. E noi ci guardammo tutti basiti, come se lui avesse bevuto un po' troppo, hai capito? Come Balotelli ai mondiali del 2014. Invece l'ha fatto. È una cosa sicuramente positiva, dicevo, sul piano della comunicazione. Alfa significa tantissimo per le corse, il mondiale, il primo di Formula 1, Nino Farina, poi Fangio. C'è un rischio boomerang che credo sia ben presente a Sergione, ed è che è andato a sposare la Sauber, che con tutto il rispetto anche nell'ultimo campionato è arrivata ultimissima. Sì, è evidente che se poi comincia il campionato 2018 e Alfa Romeo Sauber continua a arrivare ultimissima, come dice il commissario Montalbano con ritorno d'immagine, ti saluto e sono. No, ma è questione, no, dimmi una roba, è questione di marketing, immagine, comunicazione e questa roba qua, o è questione di sport, agonismo, Formula 1, allora, interesse guarda, io sportivo. Posso dire questo, che Sergione con Seisao Marchionne, no? Su questa roba è molto impegnato. Esempio, fino a questa stagione Sauber montava il motore Ferrari vecchio di un anno. Sì, l'anno prossimo avrà quello attuale. Da marzo hanno lo stesso motore del salto bevitore Raikkonen e del nostro capitano Vettel. In più ci sarà un supporto anche a livello tecnico. Ieri ad Arese Marchionne ha voluto che gli ingegneri che hanno varato la Giulia e il sub Stelvio fossero tutti lì. Come dire, dovrete metterci mano anche voi su questo progetto. Però come sempre, come per l'Inter sabato a Torino, bisogna fare la prova del budino, per capirci buono, bisogna mangiarlo. Per vedere se resta compatto o si scioglie, no? Beh, sai, allora, io penso che è una cosa sicuramente intrigante. È molto positivo che Marchionne abbia imposto sull'Alfa Romeo Sauber questo Leclerc, che sarà l'erede di Raikkonen. Bravo, lo dovremo sperimentare. Speriamo più presto, però, che poi. Però tutti me ne parlano in termini entusiastici e quindi io sono molto fiducioso. È un allievo dell'Accademia Piloti della Ferrari a Maranello. Io avrei preferito che Sergione con Seisao Marchionne picchiasse un altro pugno sul tavolo dicendo agli svizzeri, perché la Sauber è svizzera, voi avete il cioccolato, gli orologi a cucù, e le banche, quello che volete, ma al posto di Ericsson, che non è un telefonino ma un pilota, ci mettete Giovinazzi. Ecco, lì sarebbe stato ancora più bello, perché così avremmo avuto, diciamo, di nuovo un italiano, so che gli appartiene il Gran Premio, è la dimostrazione che nell'operazione Alfa c'è un ruolo decisionale che fa capo direttamente a Ferrari, a Marchionne, eccetera. E invece gli svizzeri prendono le cocuzze dagli svedesi, sponsor di Ericsson, e Giovinazzi fa la riserva. Questo un po' mi dispiace, ci avevo sperato. Però ragazzi, insomma, rivedere... Ci dobbiamo accontentare. Insomma, io guarda, ho visto in campo Santone e Ranocchio, posso Leo, rivedere anche Leo, Alfa Romeo. Non ti do diritto di replica, ma te la lascio lì. Lo scenario perfetto sarà Leclerc che poi si piglia più prima che poi il sedile di Raikkonen, e a quel punto c'è lo spazio per Giovinazzi. Ciao Leo, abbiamo finito. Non partire. Tutti a Zanzibar a trovare Ventura, mi raccomando ragazzi. Ciao Leo, mi serve non settimana. Moriremo Juventini, non moriremo Juventini. Un abbraccio a tutti. Anche a te, abbiamo finito. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleone, Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Tutti convocati, torna domani alle 14, lascia in eredità questo messaggio, l'Alfa col motore Ferrari non si può sentire, a domani Carlo. Invece tutti convocati weekend, torna domenica alle 17, il City ha vinto 2-1, partita finita adesso. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!